Gioia i suoi occhi, Michele la sua carnagione, verrà sempre la ragione. Abbracciati su una panchina, misuravamo le nostre giovani emozioni e tempo passato non ritornerà. Tutti quei sforzi, tutti quei pianti, scorre l'acqua e scorrerà. Tu qua ora, su sentieri già percorsi, su ricordi. Tu qua ora, su sentimenti dimenticati, secondi su secondi, secondi su secondi. Risate castelli, di cadute lacrime e consigli, ripartenza, sorrisi e progetti, secondi su secondi, secondi su secondi. Secondi su secondi, secondi.